Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Indio! Non si può andare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Allora, quando sono le 22.06, questa è Radio Possum, gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutti e tutte. Abbiamo un ospite questa sera, due ospiti anche questa Vabbè, sera. Vabbè, no, una non è ospite, insomma, è nostra redattrice. È bucata. No, redattrice. È vero. Giusto. Si dice di no con la testa... In realtà è la vera eminenza grigia di Radio Possum, noi facciamo quello che dice lei. È vero. E poi salutiamo un'altra nostra redattrice che non ha potuto perduta chissà dove e chissà con chi. Peccato, perché comunque questa trasmissione secondo me gli sarebbe molto piaciuta e non so se speriamo che ci ascolti, così la può sentire. Vabbè, insomma, di che parliamo questa sera? Di che parliamo stasera? Sì, questa sera riaffronteremo il tema degli allevamenti da pelliccia e sentiremo appunto un attivista che ci farà un aggiornamento sulla campagna Vi sono i liberi, che avevamo già annunciato, diciamo, lo scorso anno e che adesso sta finendo la sua prima fase e poi le solite notizie varie ed eventuali. Aspetta, non ti si sente? Prova a parlare. Tutto più? Ecco, no, c'è il cavo difettoso. Sì, siamo ritornati adesso in trasmissione con un attivista di la campagna Vi sono i liberi, di cui abbiamo già parlato più volte nel corso dell'anno scorso. Ci senti? Sì, ciao. Ciao. E niente, ti chiamiamo adesso un po' di tempo di distanza per avere un po' un aggiornamento sullo stato della campagna, perché appunto sappiamo che la prima fase è più o meno in conclusione, perché state presentando questa petizione che è da tempo che ormai è stata diffusa in tutti appunto i canali antispecisti, e volevamo sapere com'era andata questa prima fase, quale innanzitutto, e poi parliamo appunto di altro, di un quadro più generale. Ma sì, come dicevi te, stiamo concludendo questa raccolta firme che abbiamo lanciato in seguito all'investigazione dentro gli allevamenti di visoni in Italia, e presenteremo queste firme che per ora tra l'online e il cartaceo siamo circa a 60-70 mila firme. E, ovviamente, come penso molti insomma sapranno, raccogliere delle firme ha solamente un valore spesso simbolico, però comunque rappresenta un appoggio a questa campagna, che ovviamente non si limita alla raccolta firme, ma è fatta di tanti tipi di iniziative, proteste. Abbiamo organizzato in questi mesi cortei di allevamenti, presidi agli allevamenti di visoni e soprattutto delle campagne locali dove vogliono aprire nuovi allevamenti. Quindi insomma questa raccolta firme chiude adesso con la consegna che verrà probabilmente a novembre, un periodo che era un periodo di sensibilizzazione, un momento, e da qui partiamo poi anche con altre iniziative in futuro. E ci puoi fare un po' un quadro di qual è lo stato degli allevamenti in Italia per quanto riguarda gli animali da pelliccia? Anche perché, scusa, ti interrompo, mi sembra che comunque negli ultimi anni purtroppo gli allevamenti italiani di animali da pelliccia, nella fattispecie visoni, sono invece aumentati, cioè nell'ultimo anno almeno ne sono stati ricostruiti molti, diciamo, no? Sì, se parliamo di animali da pelliccia possiamo parlare di quattro specie, insomma volpi, cincilla, visoni e conigli allevati appositamente, quindi ci sono alcune varietà come il Rex allevato appositamente. Non ci sono in Italia allevamenti di volpi, sembra che abbia chiuso l'ultimo allevamento di cincilla in Italia, non sappiamo, non abbiamo informazioni riguardo allevamenti di conigli appositamente allevati per le pellicce, mentre per i visoni, come già dicevate, purtroppo si è registrato, dopo un calo che è durato tanti anni, quindi un calo continuo, si è registrato nell'ultimo anno, negli ultimi due anni diciamo, una crescita di allevamenti, quindi una risalita. Questo è dovuto ad alcuni fattori. Qua in Lombardia, per esempio, il fattore principale è il presidente dell'Associazione Italiana Allevatori Visoni, Giovanni Boccù, che ha sede del suo allevamento a Capralba, uno dei più grandi in Italia, con dai 30 ai 40 mila visoni. Lui sta spingendo molto allevatori e diciamo, agricoltori nei dintorni, nei paesi del circondario, ad aprire nuovi piccoli allevamenti, che come abbiamo visto quelli che hanno aperto finora sono 2-3 capanni, quindi parla di allevamenti di veramente piccole dimensioni, che noi chiamiamo come allevamenti satellite della sua azienda in realtà, perché in questi allevamenti vengono semplicemente fatti crescere i piccoli. Non viene fatta alcune parti diciamo della selezione, soprattutto non viene fatta l'uccisione e lo scoiamento, che viene fatto completamente presso il suo allevamento a Capralba, e quindi semplicemente è un escamotage da parte di Boccù e da parte dell'Associazione Italiana Allevatori Visoni per far crescere il numero di aziende, per far crescere appunto una lobby di difesa del loro operato, ma in realtà poi il numero di animali allevati non cresce, per fortuna, di tantissimo, perché si parla di piccoli allevamenti e soprattutto si parla di un'espansione che è collegata strettamente alla sua stessa azienda, quindi è come se si ampliasse lui stesso, ma in questo modo cerca di avere un maggiore, diciamo anche un maggior numero di aderenti all'associazione. E invece il quadro europeo anche degli allevamenti qual è? Perché comunque quello che abbiamo anche riportato più volte in trasmissione è che c'è un movimento crescente di opposizione agli allevamenti di animali da pelliccia, ci sono state diverse liberazioni e rivendicazioni, e qual è il quadro europeo, se tu hai una percezione e ci puoi spiegare un po' meglio? Ma in Europa, guarda, in tanti paesi, un numero crescente di paesi negli ultimi anni, è stato abolito l'allevamento di animali per le pellicce, parliamo già di 7 paesi europei che hanno vietato questa pratica, tra cui l'Olanda, una notizia di gennaio 2013, che è stata finora il terzo maggior produttore mondiale, sono stati dati 10 anni per dismettere tutti gli allevamenti. Questa è una notizia che ha fatto tremare tutto l'impero degli allevatori di visoni in tutto il mondo, perché comunque è un segnale fortissimo. In seguito a campagne di protesta, mobilitazioni, sensibilizzazioni, eccetera, anche i principali produttori come i paesi scandinavi, pensiamo a Norvegia, Svezia, Finlandia, anche in quei paesi stanno diminuendo moltissimo gli allevamenti, e però il trend è quello di spostarsi, per chi vuole continuare l'attività si sposta in altri paesi, e uno di questi negli ultimi anni è diventato la Polonia. La Polonia, considerata un paese dove non ci sarebbe stata probabilmente opposizione animalista, dove si pensa di poter fare affari più facilmente, ha visto crescere tantissimo il numero di allevamenti di visoni, tanto che è diventata è arrivata al pari dell'Olanda in pochi anni. Ma la notizia positiva è che anche in Polonia c'è un crescente movimento, fatto non solo di animalisti, ma anche di cittadini, di abitanti dei paesi, che anche per motivi non antispecisti, non animalisti, ma anche ecologici o comunque di vario tipo, si stanno opponendo concretamente e fisicamente alla costruzione di nuovi allevamenti, tanto che in alcuni paesi, in alcuni quelli che loro chiamano villaggi, sono state erette barricate, divelte le strade di accesso al paese per non far arrivare gli animali ad allevamenti che erano in costruzione. Queste sono notizie che in Polonia stanno creando, diciamo, una crescita di sensibilizzazione diciamo, sul tema, e che danno una forte speranza a noi tutti e a tutto il movimento in tutto il mondo, perché comunque vedere persone, immagini di persone sulle barricate per fermare i camion con dei visoni, comunque sono, diciamo, riempiono di gioia e di speranza. Certo. No, vai. No, cioè, senti, tornando un attimo invece all'Italia, no? Tu prima dicevi che questa proliferazione di piccoli allevamenti in realtà è tutta legata a Boku, che poi è il titolare di un grosso allevamento e anche il presidente dell'AIAV, dell'Associazione degli Allevatori Visoni. Sì. Ci puoi spiegare un attimo quali sono gli interessi economici dietro? Mi spiego meglio, nel senso, un settore che appariva, almeno a livello di produzione, no? Quindi l'allevamento italiano che appariva in crisi, con moltissimi allevamenti che avevano chiuso nell'arco di 2-3 anni, anche in seguito a pressioni all'opinione pubblica, ma anche in seguito all'azione diretta e quindi liberazioni e via dicendo, sì, sì. Con l'aumento quindi anche dei costi assicurativi da parte di queste strutture, insomma, un settore che appariva in ginocchio all'improvviso sembra essersi ripreso. Cioè, che cosa c'è dietro? E soprattutto, a parte l'appoggio probabilmente dei politici locali, perché vedono nell'allevamento, vedono anche l'occasione di posti di lavoro e via dicendo, ma l'appoggio economico da dove viene? Se a voi avete un'idea di questo, chiaramente. Ma guarda, allora, per quanto riguarda il settore allevamento di animali da pelliccia, Boku va sbandierando ovunque che è un settore in crescita, che non ci sono rimanenze e che comunque lui e gli altri rispondono a una domanda. Quello che loro, c'è una domanda, diciamo, di prodotti. Quello che loro però non dicono mai è che questa domanda di prodotti, cioè quindi le pelli degli animali uccisi, non viene dall'Italia. Questa domanda viene dall'estero, e quasi tutta la produzione italiana finisce in Russia e Cina, che sono i nuovi mercati emergenti per quanto riguarda l'industria, diciamo, la pelliceria. In Europa, in tutta Europa e anche negli Stati Uniti, l'acquisto di capi in pelliccia è calato ed è in continuo calo anno dopo anno, e quindi questi allevamenti vendono, è vero, e guadagnano tanto perché vendono a dei mercati diciamo lontani. Per quanto riguarda il fattore economico, quello che spinge questi nuovi allevamenti ad aprire è il fatto che allevare visoni richiede poco tempo, richiede poche ore lavorative al giorno, e purtroppo è vero che finché la domanda c'è è un settore abbastanza lucrativo, perché comunque rispetto ad altri, diciamo, altri tipi di allevamenti c'è un guadagno rispetto alle ore di lavoro messe molto maggiore. Aprire un allevamento piccolo di un paio di capanni, 2-3 capanni, richiede un investimento di qualche decina di migliaia di euro, quindi non investimenti colossali, e questo è il motivo per cui alcuni stanno riconvertendo aziende agricole che allevavano altri tipi di animali, con, diciamo, mettendo i visoni. e Bocuse sta sfruttando molto questa, la crisi che c'è in alcuni settori, specialmente per quanto riguarda i suini o le mucche, e sta spingendo molto per far aprire, oppure aprire nuovi allevamenti di bisogno appunto nella sua zona in Lombardia. Sì, un po' come aggiunta un po' a questo discorso, perché non ci stanchiamo mai di ricordarlo, anche se l'industria di pelliccia sembra che è sempre in calo, perché appunto le pellicce non vengono più vendute, c'è una trasformazione della stessa industria per i capi accessori, cioè tutti gli inserti in pelliccia, che possono essere di scarpe, di colli, di polsini o quant'altro, che comunque, come tu ricordavi, provengono prevalentemente dall'est, dall'Asia, e che spesso, oltre appunto ai visoni, coinvolgono altre specie che vengono allevate più sistematicamente in quelle zone, che possono essere animali d'affezione a noi più, diciamo, vicini, quali cani e gatti. E quindi, diciamo, c'è una trasformazione della stessa industria di pelliccia, e questo lo ripetiamo ogni volta, perché adesso ancora non stiamo verso l'inverno, però quando arriverà l'inverno, almeno tutti noi, diciamo, non noi, ma tutti quelli che ci ascoltano, rifletteranno un po' di più sugli inserti che troveranno nei loro capi. Vabbè, oltre a questa aggiunta, volevo fare un punto un po' sulla campagna stessa, Visoni Liberi, che è una campagna che appunto nasce un po' di mesi fa, adesso non ricordo benissimo la data, quindi questo ce lo direi tu, e che comunque nasce anche legata a una investigazione negli stessi allevamenti da pelliccia, per cui abbiamo anche sentito un attivista che ci ha spiegato le sensazioni nel fare un'investigazione di questo tipo, quali sono le sofferenze degli animali allevati, la modalità atroce di morte quant'altro. Adesso, per fare una storia, che adesso ci manca per chi ci sente per la prima volta, se tu ci puoi ricordare come nasce questa campagna Visioni Libere e quali sono le finalità e le tappe. Non so se mi sono spiegata. Sì, la campagna è nata, come dicevi, appunto, come aveva accennato anch'io, in seguito a questa investigazione che abbiamo chiamato Morire per una pelliccia e che abbiamo presentato nel febbraio di quest'anno. L'investigazione è durata 18 mesi in cui abbiamo girato tanti allevamenti di bisogno in Italia, abbiamo documentato la vita e la morte di questi animali. Per chi è interessato, c'è il sito visoniliberi.org, da lì è visibile il filmato, sono visibili le fotografie, eccetera. In seguito al lancio della campagna, noi abbiamo pensato comunque di muoverci verso un obiettivo specifico, che è arrivare all'abolizione da parte del governo italiano di questo tipo di allevamento. Abbiamo pensato che fosse importante in questo momento arrivare a, diciamo, un passo legislativo, perché comunque segue già, come dicevo prima, 7 paesi europei, e quindi non è un qualcosa di impossibile da chiedere. E soprattutto si parla di 20, adesso circa 20-22 allevamenti, quindi è prevalentemente a conduzione familiare, quindi non è impossibile pensare di arrivare a vietare questa, diciamo, questa pratica, perché la lobby che ci troviamo a contrastare comunque non è una lobby potentissima, fatta di multinazionali come quella, che ne so, quando si contrasta vivisezione o altre forme di sfruttamento degli animali. E soprattutto abbiamo pensato comunque che la cosa necessaria fosse diffondere innanzitutto sensibilizzazione, conoscenza di ciò che avviene negli allevamenti, e soprattutto l'esistenza degli allevamenti stessi, che la maggior parte delle persone che abbiamo incrociato in questi anni, diciamo, comunque non sapevano nemmeno esistessero in Italia allevamenti di questo tipo, dove i visoni vengono allevati per farne pellicce. E le tappe della campagna sono state, diciamo, varie, soprattutto in Lombardia, per cercare di contrastare, in alcuni casi, diciamo, con successo, in altri purtroppo no, la nascita di altri nuovi allevamenti. E quello che abbiamo cercato di fare è comunque creare una mobilitazione crescente, e che continueremo a spingere nei prossimi mesi, affinché si faccia capire e si faccia vedere soprattutto che c'è un'opposizione in crescita e notevole contro questo tipo di allevamenti. Dei dati dell'Eurispes, che è un, diciamo, un ente che fa sondaggi, nel 2011 dicevano che l'83% degli italiani avevano espresso un parere negativo rispetto alla presenza di allevamenti di animali per farne pellicce. Ciò fa capire che comunque si lavora in un ambito in cui comunque c'è un forte consenso comunque rispetto a ciò che stiamo chiedendo. Però, come sappiamo benissimo, fino a che non c'è mobilitazione, finché non si fa baccano rispetto a un argomento, ovviamente niente si muove. Quindi le prossime tappe saranno comunque continuamente un modo per cercare di far capire tutta questa attenzione e per diciamo arrivare a questo obiettivo che ci siamo prefissi. E senti, poi una cosa, voi una cosa è uscita anche a livello nazionale, voi quest'estate avete avuto, due di voi mi sembra, avete avuto un episodio insomma non piacevole, perché siete stati inseguiti da un allevatore di visoni, inseguiti con la macchina, speronati e via dicendo, no? Se ci puoi ricostruire questi episodi e soprattutto dare aggiornamenti, insomma, se ci sono novità da questo punto di vista. Ma guarda, posso raccontare questa cosa in prima persona perché ero alla guida di quella macchina, quindi per chi ha visto il video, per chi non l'ha visto, comunque è stato un momento, diciamo sono stati dei minuti lunghissimi e molto difficili, perché comunque in quel caso noi siamo stati visti il giorno di Ferragosto intorno all'allevamento mentre facevamo delle riprese, ce ne siamo andati via tranquillamente con l'allevatore che ci ha urlato qualcosa dietro, e mai ci saremmo aspettati che poi, arrivati alla nostra macchina che era in una sterrata, lo avremmo trovato a tutta velocità nelle sterrate a cercare di inseguirci. E in quei momenti l'allevatore ha proprio cercato di speronarci, cioè ci ha speronati più volte, tamponati 5 volte, e in seguito a quella, diciamo anche a questi tamponamenti, abbiamo riportato delle lesioni al cervicali, e comunque abbiamo rischiato seriamente, perché comunque vi potete immaginare una stradina di campagna con i fossi ai lati dove tocca andare a 100 all'ora con un pazzo dietro che agita bastoni dal finestrino e cerca di tamponarti, ti tampona in curva, non è una bella situazione. E la situazione, diciamo, ciò che poi è emerso è che è stata una situazione dal punto di vista nostro, diciamo, di immagine molto positiva, perché siamo riusciti a filmare quello che è successo, e quel filmato ha fatto il giro di internet, è finito su tanti media nazionali, e comunque ha dato, ovviamente l'allevatore si è dato una zappata sui piedi, e noi l'abbiamo saputa sfruttare questa situazione al nostro, diciamo, a vantaggio nostro e soprattutto degli animali. E il seguito ovviamente si vedrà nel tempo. Adesso, dopo un periodo, diciamo, di stasi, stiamo cercando di capire come si muoverà la situazione dal punto di vista legale, eccetera, rispetto a questa aggressione, di cui ovviamente adesso stiamo aspettando di ricevere i danni sia fisici a noi che all'automobile. E l'ultima cosa che ti volevo chiedere, quando queste firme verranno consegnate, qual è il tempo che vi siete dati, ultimo? Ma noi abbiamo dato come termine di scadenza per darcele a noi il 15 ottobre, stiamo aspettando le, diciamo, ovviamente gli appuntamenti per consegnarle, e verranno date tra fine ottobre e inizio novembre presumibilmente. Comunque chiudiamo la raccolta per essere pronti appena abbiamo una, diciamo, la convocazione che possiamo darle, lo faremo. Verranno consegnate alle commissioni specifiche che si occupano di questo argomento, che è l'allevamento di animali da pelliccia, di Camera e Senato, e soprattutto c'è da ricordare che comunque sono già state presentate al Parlamento italiano 2 proposte di legge, sia appunto una al Senato, una alla Camera, per l'abolizione di questo tipo di allevamento. Ciò che serve adesso è fare in modo che, al contrario della maggior parte delle proposte di legge che potrebbero fare del bene agli animali, vengano calendarizzate, quando di solito finiscono in un cassetto a prendere polvere. Ma come dicevo prima, serve una mobilitazione, serve seguire, fare pungolare, per fare in modo che comunque, quando c'è una buona proposta di legge, possa essere discussa e votata favorevolmente. Se vuoi lasciare invece i contatti per chi volesse appunto seguire meglio tutta la campagna o appunto avesse delle domande, o se vuoi aggiungere altro, noi adesso non abbiamo altre domande in realtà da farti, però qualsiasi cosa vuoi aggiungere, ben venga. Ma guarda, invito tutti a guardare, se non l'hanno già fatto, il sito www.bisogniliberi.org, che è il sito di riferimento della campagna. E c'è il video, le informazioni, ci sono tutti i nostri contatti, la mail è info@bisogniliberi.org, e sul sito stesso c'è una parte di blog dove mettiamo degli aggiornamenti importanti di volta in volta. Comunque questa campagna è portata avanti da due associazioni diverse, che sono Nemesi Animale ed Essere Animali. Entrambe hanno i loro siti di riferimento, i loro contatti, per cui invitiamo a seguire quello che facciamo, invitiamo a seguire questa campagna e soprattutto a seguire tutte le nostre attività che parlano di tutte le specie animali. Quindi in questo caso oggi stiamo parlando di animali uccisi per fare pellicce, ma la nostra attività è la diffusione dell'antispecismo, della critica a qualunque forma di sfruttamento degli animali, la diffusione del veganismo, e diciamo ci muoviamo prevalentemente in Lombardia ed Emilia Romagna, ma comunque abbiamo la possibilità anche di fare iniziative in altre regioni, e quindi ben venga qualunque richiesta di iniziative da fare insieme, di approfondimenti, di persone che vogliono darci una mano. Noi siamo qua e abbiamo voglia di collaborare. E allora ti ringraziamo tanto per il microfono. Non devi muovere il cavo del microfono. Niente, ti ringraziamo tanto e ci risentiamo sicuramente per aggiornamenti su questa campagna e altro, e niente, ti auguriamo una buona serata e grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao. start to gain. When the rivers turn to blood, and the joy turns in a pain. With a rocket pointing Germanic roots, swastika shaved heads, still toe crap boots. Their warped ideal is a Nazi nation, born of loss and great frustration. A white nightmare. A white nightmare. A white nightmare. The great white night. Of the past, where they misplaced pride in their areas far. From the rotten seeds inside their heads, hatred grows and hatred spreads. Before you realised it had begun, the world is under threat from Nazi scum. So on your feet now, do what's right. It's time to spread the love, but look out all alone. Torniamo in diretta dopo questa lunga canzone e la lunga intervista. E visto che fino adesso abbiamo parlato di pellicce, vogliamo soltanto segnalare che nel frattempo negli Stati Uniti, in Canada, ma soprattutto negli Stati Uniti, negli ultimi mesi ci sono state moltissime liberazioni di animali da pelliccia, soprattutto visoni, ma anche in alcuni casi volpi. Tutte liberazioni che sono la cui notizia è stata data dal sito directaction.info, che riporta o rivendicazioni anonime degli attivisti che probabilmente hanno fatto queste liberazioni, oppure anche articoli di giornale che parlano di queste cose. Così, per esempio, ne citiamo qualcuna. Nel 14 agosto sono stati liberati circa 2000 visoni da un allevamento di pellicce, di animali da pelliccia in Illinois. Scusate, le sto cercando. Il 5 settembre sono stati liberati un centinaio di visoni in una fattoria dell'Iowa. E via dicendo, insomma, il 18 settembre. Diverse centinaia, no scusate, 20 visoni liberati da un allevamento di nello Utah, che è un altro stato della East Coast. 4 ottobre 500 visoni liberati stavolta in Canada, nella British Columbia. E poi l'ultima notizia, che di oggi, almeno è stata pubblicata oggi la rivendicazione, e cioè che da un allevamento del Wisconsin sono stati liberati 2000 visoni. Si parla quindi di un totale di una decina di strutture colpite, diciamo, e circa poco più di 10.000 animali liberati da luglio del 2013. Ok, continuiamo con le notizie. Andiamo a leggere quella che è stata una liberazione di porcellini d'India. Aspettate che il comunicato è in inglese ma poi anche in italiano. Con questo comunicato rivendichiamo la liberazione di 407 porcellini d'India dell'allevamento Bettinardi situato in via Cascinali all'alzate di Momo in provincia di Novara, avvenuta la notte del 5 settembre 2013. Intanto ricordiamo, i porcellini d'India sono dei roditori, sono simili a delle cavie, a dei topi. Da oltre 10 anni l'allevamento di cavie e coniglie di proprietà di Giuseppe Bettinardi rifornisce l'industria della vivisezione nel più totale anonimato. Non stupisce che immediatamente dopo l'azione i media abbiano tentato di nascondere la verità riguardo a questa struttura, descritta come allevamento di animali da compagnia. Sfortunatamente per Bettinardi siamo in possesso di tutte le informazioni necessarie per rendere finalmente noti i suoi legami con l'industria della sperimentazione animale. Bettinardi alleva coniglie prevalentemente New Zealand White e cavie di razza Dakin Hattley. Questo tipo di animale viene utilizzato esclusivamente ai fini di ricerca. Abbiamo reperito informazioni su innumerevoli crudeli esperimenti di ricerca base in diverse università italiane e sappiamo con sicurezza che questo allevamento rifornisce con continuità le università di Milano e Pavia. Siamo a conoscenza di esperimenti nei quali cavi allevati da Bettinardi sono state uccise esclusivamente per prelevare porzioni di muscolo del loro stomaco, per metterle in seguito stimolarle elettricamente nel tentativo di stabilire se il farmaco levosulpride abbia o meno effetto procinetico, ossia sia in grado di stimolare la funzione motoria intestinale. Durante 2 altri esperimenti, ad un totale di 40 conigli di provenienti da questo allevamento, è stata aperta la gabbia di scusate un attimo. Ecco, adesso si vede meglio. Durante 2 altri esperimenti, ad un totale di 40 conigli provenienti da questo allevamento, è stata aperta la gabbia toracica e una canula è stata inserita all'interno mentre gli animali erano vivi e coscienti ed una speciale soluzione è stata iniettata nei loro polmoni. Gli animali sono stati infine uccisi di modo da poter raccogliere campioni di liquido dai polmoni durante una ricerca sul funzionamento di questo organo. In altri 2 esperimenti di appena alcuni mesi fa, 38 e 22 conigli, sempre allevati in questo luogo, venivano uccisi per dissanguamento, il che significa che è stata loro tagliata la gola e sono stati fatti sanguinare sino alla morte, solo per poter rimuovere la loro gabbia toracica e i loro polmoni come parte di una ricerca sulla lubrificazione dell'apparato respiratorio. Questi sono solo alcuni degli esempi degli esperimenti che questo allevamento ha reso possibile rifornendo gli animali di laboratori durante gli anni. Sebbene una parte del movimento e la maggior parte delle persone spesso concentri la propria attenzione su altri animali usati nella ricerca, come cani o scimmie, le specie più piccole rimangono le maggiormente usate nella vivisezione. In Italia vengono usati in media 13.870 porcellini d'India ogni anno nei laboratori contro circa 950 cani. La reazione quando si parla di cani è maggiore, in quanto le persone riescono più facilmente a connettere con questi animali o semplicemente perché le strutture di ricerca sono molti di più e la nostra lotta ambisce alla liberazione di ognuno di loro. La vivisezione in un sistema capitalista globalizzato rappresenta uno dei settori dello sfruttamento animale più redditizi per una delle industrie più potenti al mondo, quella chimico-farmaceutica. La fede cieca nel progresso scientifico e tecnologico propugnata dai ricercatori e multinazionali è l'espressione ultima della mentalità capitalista e antropocentrica. Questa ideologia che ci presentano come il cammino inarrestabile dell'essere umano verso un presunto miglioramento delle nostre condizioni di vita è usata come giustificazione per il dominio sulla natura, la tortura e l'uccisione di un numero infinito di animali non umani, come pure di esseri umani usati come cavie nei paesi economicamente poveri, nelle carceri o negli ospedali psichiatrici. L'allevamento è composto da 2 grossi capannoni attaccati in fila l'uno dietro l'altro che formano una struttura divisa in varie sezioni, alcune usate per i conigli e una per i porcellini d'India. Tutti i conigli rinchiusi in questo allevamento sono stati tenuti in gabbie strette e completamente spoglie, dove non hanno la possibilità di alzarsi, girarsi o fare qualsiasi movimento. La maggior parte dei porcellini d'India sono tenuti in box di legno in gruppi piuttosto numerosi, mentre un numero minore di animali sono rinchiusi in piccole gabbie di plastica, in gruppi da 3 a 5. In nessuno degli spazi dove gli animali vivono sono presenti tane o luoghi dove poter trovare rifugio, anche se per loro si tratta di un bisogno primario ed il dover restare sempre esposti sia una grossa fonte di stress. L'abitazione dei proprietari, una grande casa di campagna, è situata a pochi metri dai capannoni, intorno case e campi tra cui camminiamo al buio per raggiungerli. L'erba ci accarezza le gambe, mentre in fila indiana apriamo sentieri non scritti. Non è contemplata via di fuga per gli animali, ma questa notte creeremo un nuovo varco. Le finestre diverranno porte, i campi e le vie per la libertà. Daremo aria fresca ai nostri sogni e agli animali che ancora non sanno cosa sia. Quanti saranno? Ce la faremo a portare via così tanti? Avranno paura? Anche noi abbiamo paura, non siamo eroi da sangue e cuore freddo, incertezze ed errori sono pesanti, ma la rabbia è troppo grande, l'odio è troppo forte, nulla ci può togliere la voglia di agire affinché ad avere paura siano i nostri nemici. Avvicinandoci all'allevamento cade una stella cadente, per ora un unico desiderio, tornare a casa sani e salvi con tanti musetti intorno a noi. Il palo si posiziona per controllare i movimenti all'interno della casa e durante l'azione ci muoviamo facendo meno rumore possibile, mentre all'interno dell'abitazione qualcuno accende e spegne la luce, guardando uno schermo ignaro di ciò che sta accadendo a pochi metri di distanza. A coprire un poco il suono dei nostri movimenti, i fischi dei porcellini d'India. C'è una ventola di arazione dell'allevamento e di tanto in tanto l'abbaiare del cane del proprietario o di quello dei vicini di casa o ancora il passaggio di un treno in lontananza. Rimuoviamo la zanzariera che ci ricopre una finestra aperta sul retro del capannone e poi vabbè, continua diciamo il comunicato, lo potete leggere, è molto carino, io non lo leggo tutto, è troppo lungo. Però diciamo che in questo lunghissimo comunicato che racconta l'azione ci sono due postscriptum che secondo noi invece sono molto interessanti. Il primo postscriptum dice: con il recente aumento di persone interessate alla questione animali in Italia abbiamo assistito alla crescita di alcuni fenomeni preoccupanti. In primo luogo vogliamo esprimere la nostra repulsione per i tentativi da parte di gruppi e o individui di estrema destra di approparsi e farsi portavoce della causa animalista. I fascisti hanno spesso tentato di recuperare e usare a loro favore diverse lotte sociali e di liberazione, snaturandole e svuotandole di contenuti. Proviamo solo odio e disgusto per ministre zoofile, chiaro riferimento a un ex ministro, nazisti camuffati da Black Bloc e chi usa l'acronimo ALF, misconoscendone la storia e le radici antifasciste. Il secondo postscriptum invece si riferisce a una realtà veramente molto triste. Noi ve lo leggiamo e dice: un altro problema è la presenza di numerosi siti internet o profili su social network che mistificano i contenuti della lotta per la liberazione animale e la teoria alla base dell'azione diretta attraverso una grottesca rappresentazione dell'alfa come un comando di eroi mascherati. Principalmente due di questi spazi hanno catturato la nostra attenzione: il sito fronteliberazioneanimale.webly.com ed il loro profilo ALF Fronte Liberazione Animale Italia, il loro profilo Facebook. Sarebbe. Queste persone sono arrivate al punto di richiedere pubblicamente soldi per ipotetiche campagne di supporto ai prigionieri, ma nulla è mai arrivato a persone in carcere. Il loro ufficio stampa non esiste ed il fondo si è toccato quando sono state diffuse informazioni riguardo un prigioniero mai esistito, con il solo fine di ricevere più donazioni. Per noi siete nemici, non siete diversi da infami e sfruttatori di animali e meritate lo stesso trattamento. Non pubblicate o diffondete questo comunicato, voi non siete parte di questa lotta. Questo lunghissimo comunicato lo trovate sul sito directaction.info, sia nella versione inglese che nella versione italiana. Noi qui ve l'abbiamo riportato a titolo di cronaca e riteniamo che sia molto interessante, soprattutto come diciamo il secondo postscriptum, perché da diversi anni esiste su internet un sito che poi si è aperto il suo profilo su Facebook, gestito da una o più persone che si chiamano Fronte di Liberazione Animale e raccolgono anche soldi, con anche di raccogliere soldi, quindi di prendere donazioni che poi loro devolverebbero ai prigionieri. Ora, a parte il fatto che chiaramente non esiste l'ALF inteso come associazione, come società, con un presidente o un consiglio di amministrazione, non è un'organizzazione, semplicemente una sigla. Tutto questo insomma lo riteniamo sia abbastanza interessante, soprattutto per le dinamiche spaventose che mette che si verificano sui social network. Adesso, al di là di tutto, noi invitiamo chiunque a vivere la vita, la vera vita fuori, insomma la vita non è su Facebook, non è su Twitter, e purtroppo ci sono delle persone evidentemente che approfittano di questo, approfittano anche dell'ingenuità di molte altre persone per fare, crediamo noi, per fare soldi sulla pelle di un asile e anche sulla pelle di prigionieri che pagano in prima persona la loro lotta per la liberazione animale della terra. Ich schreibe dir diesen Brief aus Karlsruhe. Doch ich glaube, es ist egal, woher ich bin. Hier ist alles Schmalspur, aber auf keinen Plan. Sehe mit Angst um meine Zukunft. Der Weg ist einbahn, find nur in Rapmusik Zuflucht. Reagier nicht auf Zuruf, die Stimmung ist aggro. Jeder geht seinen Weg, de facto hängen wir am Abgrund. Meine Depression, das Leben, wie Brad Pitt in Fight Club. Ich unterliege vielen Zwängen, sodass ich nur selten Zeit hab. Aber ich weiß das, versuche ehrlich zu leben. Versuch die Schwere zu legen, ehrlich, ich wehr mich dagegen. Versuche tiefer zu gehen, ohne zu kentern wie ein Schiff. Mit voller Fahrt gegen Griff, ich brauch Platz. Ein Part und ein Stift. Wie sieht's bei dir aus, mein Freund? Kennst du das, was ich beschreibe? Ich schick ein Peace nach Kiel. One love, one big fight, ja. Yeah. Hallo Chaos, hab mich sehr gefreut von dir zu hören. In deinen Zeilen zeigt sich wieder, wie viel wir zerstören. Seit ein paar Jahren und momentan asozialer Wahn. Und der Leviathan strebt nur danach, noch mehr Macht zu haben. Solidarność scheint wie Zerbrechen oder modernen Knechten. Statt kampflos zuzusehen, müssen endlich lernen zu fechten. Es wächst mit jedem Herzschlag die Sehnsucht, Frieden zu spüren. Wer das Kapital ist tot, sieht Helden in Kriegen zu kühlen. Du weißt, was ich mein, jeden Tag sieht man's im Kleinen. Wenn sich in Betriebenheit und Missgunst zu Trägen vereinen. Viele kommen da nicht mit, gerade im psychischen Zwanken. Eine Frage der Zeit bis Sedern und physisch erkranken. Kräfte verschleißen, Hoffnung wird durch Apathie verdrängt. Bin so froh, dass Musik uns mutig Liebe schenkt. Chaos, ich mach es mal Schluss, muss noch lesen und lernen. Um danach, wenn der Tag noch reicht, mit dem Stift mein Leben zu queren. Meld mich spät zurück, überleben heißt grad Bettlaufen. Im Moment fehlt mir die Ruhe, die ich zum Schreiben für meinen Text brauch. Hab das Gefühl, diese Tage halte ich am besten nur im Bett aus. In diesen Lagen heißt Wirbel machen, scheuch eine Menge Dreck auf. Du kennst das, fühl mich wie der Panzer im Käfig. Voller Hass, nochmals schläfrig, ob der Macht, die mich mäßigt. Tank der Energie aus Tracks, so wie den Worten, die wir wechseln. Sie bedeuten mir Schätze, sind noch da, wenn wir weg sind. Ich kontrolliere meine Moves, wie ein DJ beim Backspinnen. Und erwisch mich beim Testen, statt durch die City zu hetzen. Für mich ist Rap wie Atmen, ich krieg Beklemmung, wenn's ausfällt. Wenn ich am Boden bin, auffällt. Ich nicht wie ein Ringrichter auszählt. Meine Strophen hier aufzählt, den Philosophen herauswählt. Nicht wie so viele, die oben flogen, unten wieder aufhängt. Klar bin ich empfindlich, mal schwach wie ein Windlicht. Doch auch das Herz ist ein Muskel und trägt die Kraft immer in sich. Hi Chaos, in deinen Worten ließ ich Wut, Trauer und Kampfgeist. Doch ich erleb das täglich, wenn mein Spiegelbild mich anschreit. Such den ewigen Frieden ohne Lust, Verträge zu schließen. Hab einfach keinen Bock mehr, mein Leben mit Tränen zu gießen. Wo ist das Mitgefühl und die Vernunft in unserem Innern? Vergoldete Zeit beim Versuch, mich um Wunden zu kümmern. Ich will leben und nicht warten, also greife ich zum Spaten. Locke die Erde, dünge sie ohne die Scheiße der Staaten. Wir können selbst vernünftig handeln und uns Liebe schenken. Selbstbestimmung statt Entfremdung kann uns aus der Krise lenken. Anarchie, dein Ruf ist schlecht, doch du kannst nichts erfüllen. Fantasie, Schritt Mensch nach Pflichterfüllung, du bist die Kühe. Chaos, sorry, wenn ich mal wieder abschweif. Mal wieder nach dem, was ich gern hätte, aber nicht abgreif. Doch wir brauchen Vision, Ideen, Wärme und Mut. Selbstkritik, Offenheit, Mensch zu lernen tut gut. Und deshalb ist es schön, mit dir zu schreiben, das gibt mir Kraft. Wie Musik, ach ja, hast einen dicken Beat gemacht. Das war's aus Kiel, Chaos, alles Liebe, bis bald. Hoffe, dass die Stimme der Hoffnung bei uns niemals verhallt. E allora sfumiamo Albino per tornare in diretta. E vorremmo innanzitutto esprimere la nostra solidarietà agli attivisti di Greenpeace, solidarietà che va a loro personale chiaramente, non proprio all'associazione di cui fanno parte. Come molti di voi sapranno, ci sono diverse decine di attivisti di Greenpeace, tra cui un italiano che diversi giorni fa sono stati fermati, tra l'altro in acque internazionali, dalla guardia costiera russa, con l'accusa di aver assaltato, tra virgolette, in realtà assolutamente in modo pacifico, di aver scalato una piattaforma petrolifera nel mar Artico della famigerata Gazprom, che sta effettuando delle attività di trivellazione, creando anche un vero e proprio disastro ecologico. È un'azione dimostrativa che si è conclusa con il loro arresto, e il problema è che l'arresto, ripetiamo, in acque internazionali, quindi non in acque nazionali russe, e a breve ci sarà il loro processo. Queste persone rischiano fino a 15 anni di detenzione nei carceri russi, secondo quanto prevede l'articolo 227 del codice penale, perché gli viene sostanzialmente imputata l'accusa di pirateria. E vabbè, a queste persone che al di là dell'associazione di cui fanno parte hanno comunque fatto un'azione rischiosa in prima persona e da approvare, va comunque la nostra solidarietà. Continuiamo con gli appuntamenti. Sì, il prossimo appuntamento è quello, il corteo contro le devastazioni del territorio in solidarietà con Giobbe, del 12 ottobre 2013 dalle ore 15 alle ore 18. 12 ottobre, giornata nazionale contro le devastazioni ambientali. Leggiamo una parte del comunicato che troviamo sul sito informazione. Sempre più grandi opere segnano un cambiamento drastico del territorio in cui viviamo, collegate tra loro per motivi di rinnovamento logistico nella gestione delle merci, di speculazione e per scopi bellici, contribuiscono a modificare pesantemente la vita delle persone. Il TAV, l'Expo, le autostrade come Pedemontana o BRBMI, il MOS, la Elcona non servono a migliorare la nostra vita, ma ci vengono imposte da un sistema che ha il solo fine di trarne profitto. Giusto e necessario è quindi opporsi a unire le lotte in difesa del territorio, ed è proprio questa unione che lo Stato vuole evitare e cerca di impedire attraverso la repressione e la criminalizzazione dei movimenti, arrestando chi lotta e allontanando i possibili solidari, cerca di smembrarli e colpirli ogni forma di resistenza, fermando la nascita di alternative pericolose per loro. Giobbe, nostro amico e compagno, tra quelli che più generosamente partecipano alle lotte contro il Notav in Val Susa e non solo, fra agosto e settembre quest'anno è stato arrestato due volte su un mandato di procura di Torino, contestando gli ideati riguardanti episodi avvenuti a Chiomonte, e per cui sono indagati anche altri Notav. Non vi leggiamo tutto, ricordiamo appunto questo appuntamento a Saronno il 12 ottobre 2013 dalle ore 15 alle ore 18, giornata internazionale contro le devastazioni ambientali. Sì, e poi ricordiamo che c'è la seconda biciclettata contro gli allevamenti di visoni organizzata dal coordinamento Liber Selvatic, che appunto vi vengo a leggere il comunicato. Il coordinamento Liber Selvatic vi invita sabato 19 ottobre a una nuova giornata di mobilitazione contro l'apertura degli allevamenti di visoni della provincia di Bergamo e Cremona. I paesi di Antegnate e Misano, sede dei progetti di allevamento, saranno attraversati da una rumorosa critica al MAS, con l'obiettivo di ribadire la ferma opposizione a questi progetti di sfruttamento dell'uomo sugli altri animali e dell'uomo sulla terra. Ci troviamo ognuno e ognuna provvista e provvista di bicicletta alle 10 davanti al comune di Antegnate in via Dante Alighieri, poi pedaleremo in direzione Misano e durante il percorso ogni paese, auto e passante sarà informato o informata su quello che accade nei territori della bassa bergamasca e sulla necessità di agire per le liberazioni animali. Durante il percorso ci sarà un momento di ristoro con alimenti provenienti da coltivazioni locali e biologici, liberi da pratiche di sfruttamento animale e della terra. Per chi parte da Bergamo, il ritrovo è alle ore 9 al parcheggio della Malpensata. Ogni voce, suono, cartello, messaggio che porteremo con noi renderà più comunicativa la nostra iniziativa. Vi invitiamo a portare con voi qualsiasi strumento rumoroso e o cartelli a tema di vostra fantasia. Chi fosse sprovvisto di bicicletta e o avesse altre esigenze, ci contatti. Coordinamento Liber Selvatic, e vi vengo a dire quali sono i loro contatti, cioè liber.selvatic@inventati.org e liberselvatic.noblogs.org. E allora, con questo credo che anche per oggi abbiamo concluso. Ci possiamo salutare? Sì. Ok. Allora lasciamo i nostri contatti, che se ci volete scrivere una mail, lagazzaladra@inventati.org. Invece, se volete consultare il nostro blog e ascoltare le puntate precedenti, radiopossum.noblogs.org. E con questo, alle ore 23:00 con vergogna concludiamo questa trasmissione, come sempre ci scusiamo per la trasmissione. E niente, l'ultimo saluto a chiunque è privato della propria libertà personale, siano essi umani o non umani. Ciao ciao.